sì. Fa un passaggio in PMR per cortesia, che devo guardare una cosa. Ah, tu sei, come, è tutto staccato qua, c'è solo il ricevitore a lì. Ok. C'è una discreta alternata sulla modulazione. E l'alimentatore deve essere, cosa ne so? Credevo che fosse Gianni col bip, lo sai? Io ho acceso in questo istante, ci ho fatto un bip. Acceso e ho fatto il bip, sento un bip. Sì, ci ho lasciato il ricevitore, perché tanto non sento solo i segnali forti, quelli medio-bassi spariscono, già lo sai, no? Col ricevitore si sentono. Così è. E tu come stai? Non tanto bene. Comunque non posso parlare qua, là. Siamo in due, mi stavo sentendo anche poco bene, dai, ad Eurospina le casse. È colpa della mascherina, lo sai, mi viene proprio l'affanno, il panico mi viene. Mi manca l'aria, forse a mascherine, perché io già c'ho dispanea di mio. Se più mi metti la mugeruola, vabbè, dai, ci sentiamo, Natalia. Magari più tardi una telefonatina. Ok. Ok. Ciao Natalia, buona serata. Ciao Gianfra. La tribolazione, oltre sono andato in due posti differenti a fare la spesa. Devo cambiare la sabbia ai gatti. Sono ridotto ai minimi termini, Gianfra. La miseria. A quell'età, sono 30 anni, sei in quelle condizioni. No, vabbè, io drammatizzo sempre, però no, già mi sono stancato. Poi la macchina, speravo fosse coperto, c'era abbastanza sole in macchina, quindi abbastanza calda. E qua come gira, qui l'alimentatore ha cominciato a frignare. Il mio? No, il mio, ogni tanto si sveglia, comincia a frignare, poi però passa, lo sai, dopo comincia a fare assestarsi e poi passa. Comunque dopo tutto belle giornate, mi pare c'è anche la luna piena stanotte o domani, che non c'entra niente, ma piace a me, vabbè. No, c'era anche ieri, infatti, era bella grande, ne ho approfittato per salire sul tetto a ululare. Qualcuno mi ha anche sparato, ma mi ha mancato. Ehi, a ululare alla luna, io in un certo senso... mi piace la luna piena, andare in posti di mare o isolati quando c'è la luna piena, non lo so, un fascino particolare. Poi quando avevo la donzella non ne parliamo, poi con la luna piena, sai, tutto è bello illuminato, mi viene meglio fare tutto. Vecchi ricordi. Allora qualcosa di integro ancora te rimasto. Mi sono tornato poco fa, poi ho dovuto disfare, non c'è un centimetro quadrato vuoto in frigo, si è oscurata anche la luce del frigo, quando troppo e quando niente. Va bene. E vabbè, adesso tanto mi comincio a organizzare la pappatoia. Mi assento, mi devo dare anche una ripulita, una doccia, possibilmente una doccia, sì. Cambia la sabbia ai gatti, insomma. Continua ancora la corsa. Ti ricordi la frase del film Ben Hur? Continua ancora la corsa. Dipende da quale, perché quello che piace a me è quello... è quello vecchio, diciamo, che c'era, ci ha promesso. Io sono prendendo un mezzo mal di testa perché ero in coso in 20 metri e non ne posso più, basta. Cazzo, sempre quelli mi rispondono, ma sempre i russi, gli ucraini, i russi, i bulgari, basta, non ne posso più. Guarda, una sotto casa non mi può rispondere, è una penitenza. Appena premo, anche da sotto il letto, no? guarda sotto il letto, chi c'è? Un russo. Sta diventando un incubo questa cosa. Il fatto è che con tutte le antenne, dovunque le metta, a destra, a sinistra, puntate in alto, in basso, tutto russo. Ascolta, e tu stazioni in HF particolarmente rare che non sei riuscito a fare, ne hai? Roba che ti stai tentando? No, non sono un appassionato. Ma sta il microfono identica. Non sono particolarmente appassionato di DX, ci sto poco. No, più che altro mi piace vedere se ci arriva con le basse potenze. Oggi per chattare russi ho provato con antenna, no? 15 watt, ma che subito sono usciti fuori. Uno da un paese vicino a Chernobyl, tra l'altro è anche radioattivo questo. Un altro era un ex ufficiale della Marina di Nosobov. No, basta, non è possibile. Almeno in inglese, così di passaggio è giusto per... no, niente. Prova con 5 watt. QRP 5 watt come era l'817 una volta, mi pare di essere 5 watt in SSB. Qui lui dico quale non è, ma ricordo 5 watt, in AM addirittura 1 watt e mezzo dava il vecchio 817, adesso ne hanno fatto uno più aggiornato, 817 barra qualcosa, c'è una lettera credo, così dai, diciamo ami più il QRP, dai un po', non il paese irraggiungibile come fanno molti, e quello che hai fatto più distante comunque qual è grosso modo? Guarda, quello che mi ha risposto, non so se era in 10 metri o dove, è stato uno dall'Argentina e c'avevo qua fuori l'apparato militare con l'antenna, uno da spalla, no? Un mentasse come si chiama, uno spalleggiabile, proprio militare, e ce l'ho qua davanti. Il massimo ero a 20 watt quando le batterie sono cariche, ma oramai sono belle che andate, si va a cambiare. Ed ero fuori col microtelefono, ciccu, ho fatto la prova, avanti, dall'Argentina, ma va. È come appena grandi, mi rispondono i russi, lo vado avanti. E adesso c'è un'antenna, quella non so se le conosce, non è a frusta, ma è di quelle in vetrovesina che si collegano una con l'altra, no? Che diventano piccole, poi c'è una corda, tu tiri la corda e l'antenna si autocompone, è una cosa un po' buffa da vedere, però è estremamente efficace. Mamma mia, è veramente terribile questo alimentatore, adesso sta cominciando a oscillare, a modulare la vibrazione. E siccome questo portatelefono che uso come mobiletto per i baracchini, sotto c'è un vano, no? Sotto dove poggio i baracchini, fa da cassa di risonanza tipo chitarra, fa questo casino, guarda, ti distrae anche dalla modulazione, infatti mi sa che dopo che sistemo tutto, dopo che mangio e che faccio tutto, rimetto quello da 7A switching senza ventola però. Quello bianco della Prox, quello ventola, non è a bello, silenzio assoluto, tranne la modulazione, non senti altro, non senti né flussi, né ronzini, né ventole, ma poi la devo sempre cambiare, se la trovo dalla Cina identica, metto la sigla che c'è sopra, sai da AliExpress, quei siti là, che per un euro te ne mandano un pacco da 12. Ma se non c'è assorbimento la puoi anche fermare sta ventola. Controllati l'assorbimento, se un 20A te ne sta assorbendo 3, la stacchi ma già non scalda, la ventola anche da me, anche nell'apparecchio, in funzione appena premi il tasto, però non è necessaria, come penso io, lui potrebbe anche tenere solo la ventola. Se a lungo andare si siella e quindi non è più dritta l'oscillazione, capito? È proprio quello che fa rumore. E via. Ma solo che lo fa a momenti, sì, come se, vabbè, comunque sia, dai. L'avevo già staccata la ventola, il connettorino, no, che va poi al circuito stampato. Non scalda praticamente niente, perché a meno che non usi lineari da 200 watt, che non ho, non scalda nulla. Magari in estate sì, un po' tipidino, qualcosina senti, però adesso che arriva il freddo, perché la stagione invernale con freddo, glielo stacco, ma lo uso tutto l'inverno e anche oltre senza la ventola. Sì, tanto io non sono poi lì nel Roma né coso, cioè, anche se non sono 4 watt sono 10, insomma. Poi ho visto che tiene tutto, quell'alimentatore Prox, il modello 809, Proxel 809, 7 ampere continui, 9 di picco in teoria, vedo che fino a 40 in FM continui, non batte ciglio, non dà problemi, né ronzine, nulla. Al limite qualcuno dice che potrebbe crollare un po' il voltaggio, che bisognerebbe misurarlo mentre moduli, ma sono rari casi che si usano quei watt lì, dai. Infatti, ma poi dipende dal wattaggio, cioè dagli ampere globale che dà, se da 20 e ne stai utilizzando 4, non c'è niente. Adesso hanno preso il vizio, cioè prima erano tutti in PSK, andava bene, adesso stanno usando l'altro, come diavolo si chiama, che c'ha un rumore talmente disgraziato, guarda che non rubo su l'aria, a parte che è tutto automatico, non deve fare niente, lascia la radio e se le fa lady, è così antipatico, è un rumore proprio di quello che ti fa venire in sottovalore e si dice la basilite. Aspetta, controllo qua. Allora, ho spento un istante, vedo che c'è da installare la lancetta dell'amperometro qua. Non è proprio sullo zero. Comunque qua mi dice 2 ampere, circa 3, quindi fai siano 2 ampere, 2 ampere e mezzo. Sì, 2 ampere, 2 ampere e mezzo, oltre non basta parecchio. Forse 3 le raggiunge con i 12 watt SSB fischiando, ma modulando normalmente sempre sotto i 3 ampere di assorbimento, dai. No? Questo è da 30 ampere, c'è uno strumento unico, puoi selezionare se vedere o i volt o gli ampere. I volt possono essere 3,18 fissi oppure regolabili, solo che ormai potenziometro di volt, cioè se tocchi va, sale a manetta, scende, non va toccato con gli apparecchi accesi perché può far danno, quindi l'ho lasciato fisso a 3,18. Anzi, gli ho ritoccato il trimmer interno perché era con gli anni, no, è sceso un po' a 13 a vuoto. Era sceso a 13 volte, l'ho riportato a 13 e circa 13 a 8, dai, nemmeno. 13 e 7, dai, controllato col test. Va bene. E io mi ricordo con i baracchini dell'epoca, classici 4AM 12 SSB, bastava un Bremi da 3 ampere, il classico Bremi da 3 ampere, con quella spia rossa che era lampadina ancora. Non so perché, sui forum spesso sento consigliare uno che si prende un baracchino omologatissimo, e uno dice minimo 10 ampere lo devi prendere, se no non ce la fa. 10 ampere stai andando. Consigliano sempre alimentatori spropositati. Qualcuno al limite specifica per usi futuri, prendilo un po' più grande. Certi insistono nel dire che certi baracchini non riesci a alimentarli. Quando io ho sempre avuto alimentatori miserrimi all'epoca, 3 ampere, sto parlando delle fine anni 80, e andavano benissimo. Ok, riprendi. Io quando ero giovane, c'avevo da 2,5, avevo preso, mi ricordo, alla GBC, e ci andavo a piedi perché non c'avevo messo la macchina, non c'avevo messo la patente, ero ragazzino tutto. 2,5, quindi oi. Sì, ma poi quei baracchini moderni di adesso, quello, tu stai usando quello adesso, il PNI, dalla timbrica, no? Presumo. E quello bucce tutto con 4 watt che poi se non li dà nemmeno 2 ampere massimo e non credo che vada oltre. 2 ampere massimo, sono anche abbastanza parsimoniosi come consumi. E che fine le monta Gianfra? L'hai letta la sigla? Sei riuscito a leggerla? No, non ho capito, hai detto che fine? Aspetta, no, che fine le montava il PNI, l'hai controllato? Diciamo, l'ho aperto, ho visto che c'è un solo finale, quelli tipo fisso, no, cioè presente, proprio un finale di quelli strani, cioè strani, di quelli proprio di bassa partenza. Però poi alla fine l'ho messo in versione omologata europea, quello che c'ha AMFM, perché poi c'è anche quella tedesca che c'ha solo FM, e ti dico che mi dà 5 watt pieni. Quindi vediamo, a me ho gli apparati accesi, però saranno, tiene presente c'è la cassa accesa in ricezione, e un altro acceso, e non c'ho neanche 5 ampere. Ehi, aspetta, metto lockout, il ponte Cisa che è sempre in funzione, ok, che dire, sono senza fiato più che altro e senza parole, dai. Poi vabbè, qualcuno si prende, cioè a me non piacciono gli alimentatori, questi che vendono i cinesi, questi per computer che non hai uno straccio di strumento, poi c'è questi, di collegare i fili di questi morsetti mi pare, no? O come cavolo è, li ho visti su internet in foto, ma non, io voglio alimentatori possibilmente per roba radio, magari per schermati, che ne so. Ogni tanto ne ronza qualcuno di questi cosi, anche a, forse anche Antonello l'aveva fatto, dichiarati 30 ampere e poi magari vedi effettivi ne dà meno di 10. Beh no, già li danno, io li ho provati, ne ho avuto uno, ho anche l'altro, l'amperaggio già lo danno, tra l'altro no. Con questi svici non è un problema darle certe potenze come amperaggio, quindi no, le danno. Però sono spartani, ecco, servono più che altro per video sorveglianza, roba del genere, anche se non sono ben schermati. Cioè, perlomeno alcuni non sono ben schermati, perché io l'ho dovuto togliere perché gli faceva delle onde sui video, e quindi siccome ce li avevo, non stavo lì a manare il cappellaio, ci ho messo un bel alimentatore di computer, e tra l'altro utilizzo anche 5 volt per gli apparecchi tiroseriari che ci ha attaccato il VCR, e così ho risolto, è proprio tranquillo da anni, quelli sono immortali, questi tanto sono anche super protetti, li metti in corto e subito si fanno in autoprotezione, lo spegni, lo riaccendi e torna a funzionare. E il computer, guarda, non portano cari e c'hai energia, certo c'hanno la ventola, però ce ne sono che sono molto più silenziosi di quelli lì, ecco, ma perlomeno non ti fanno disturbi sugli schermi, se lo utilizzi per la sorveglianza, per cose lì. Niente. Oh, io stavo andando, però siccome mi sono accorto che c'è anche un'altra cosa, questo apparecchio, quello piccolino, no? C'è il tasto RFG, che è RF Gain, praticamente. E che avevo premuto, perché solamente questa presa fa anche la scansione, però è disturbato sul 16, non ho capito perché sul canale 16 è disturbato. E allora per studiare il coso ho provato a regolare questo RFG che è quasi automatico, Me l'ha tolto, mi si dice che hanno inizializzato tutti i 40 canali a rotazione. Quindi c'ha tante funzioni, sono preso i 5 a volte sul microfono, ma sono veramente soddisfatto. E naturalmente Enrico di toni bassi, ma qualcuno diceva che era cristallina la modulazione, addirittura, poi vabbè il metro di misura di letto qua e là su qualche forum, insomma il metro di misura delle persone è diverso. Qualcuno aveva detto anche che il Polmar ZX40 usciva discretamente e sembra di essere in un barattolo sfondato, brutta proprio, bruttissima. Bene, Gianfra, io ti devo lasciare, devo fare queste operazioni e forse più tardi, se c'è qualcuno sul 10 riprendo, se no mi spaparanzo. Vabbè, stasera serata TV, mi inventerò qualcosa, ok? Dai, ci sentiamo alla prossima fois, ok? Ciao Gianfra, buona serata. Aspetta un attimino, stavo già collegando l'altro, quello da tavolo, ho fatto lo sentire se era la stessa cosa, sarà meglio o peggio. Ce l'hai qualche minuto? Sì, sì, in realtà sì, prova, attacca. E... vabbè, poi mi dici che microfono è, se si può dire. Beh, sì, certo che si può dire, ne ho tre. L'ultimo è arrivato a quanti ieri, perché stanno ricantando rare questi microfoni. È la V508. Subito microfono da tavolo, normale, dal prezzo giusto, perché è intorno ai 70, credo, 70 euro, più di lì. Quindi niente di particolare, però è molto adattabile come microfono. Adesso sto usando quello là, quello da palma di questo apparecchietto. Adesso lo stacco e attacco quello lì. Eia. Eccoci qua, non so cosa, come sarà. Perfendosi. Differenza abissale. Adesso è più bilanciata, l'eccesso di toni bassi non c'è più, è più chiara, più tutto. Ah, qualcuno ha detto che non era bella, che qua, che là. Beh, ognuno ha certi gusti, quindi non si riesce a capire quando va bene e quando va male. Sai cos'è? Il metro di misura è diverso in ogni persona, anche in ogni apparato, cioè se ti ascolto, cosa che dico sempre, con 10 apparati diversi ti sento in 10 modi diversi. Dimmi la distanza dal mic e poi avvicinati un po' al limite. Allora, questa è la distanza normale, con voce normale, 30 centimetri. Adesso sono 20. Adesso sono 10, adesso sono attaccato al microfono. Ma vabbè, sì, comunque è meglio più di 10, dai, comunque. 10 cominciano a essere già un po' fortini. Sì, si sente forse un po' l'effetto stanza, però l'eccesso di bassi di prima è sparito. Poi può piacere o non piacere. Comunque, probabilmente quel baracchinetto ha un modulatore che esce leggermente cupo, perché col mic normale è cupo, qua mantiene un po' di abbastanza toni bassi, conta che ti sto ascoltando anche col 3009 che riceve un po' più acuto, no? È più medio-alta la ricezione come tonalità. E questo suona decisamente meglio comunque, non c'è paragone comunque dal mic originale a questo. Poi, che piaccia o non piaccia, la capibilità, la comprensibilità è assoluta, che dire? Infatti questo è solo per comodità, poi l'apparecchio rimane un apparecchietto da mettere in macchina, c'è una batteria, te lo porti anche a prezzo, ne fai uno spalleggiabile, ma neanche perché è troppo piccolo per essere uno spalleggiabile. Infatti una di quelle batterie, quelle al piombo, da 12 volt, nel senso che tu li parecchio non puoi fare qua, perché non consuma neanche tanto, e tu hai un bel vantaggio anche, metti un'antenna di quelle a nastro magari per comunicare, perché hai il bel apparecchio da poter andare in giro. Sì, spalleggiabile, come dicevamo all'epoca, te lo tiravi a spalle proprio. Sì, quello consumando poco anche di ampere si presta. Vabbè, io dico sempre, il problema è sempre l'antenna, trovare un'antenna tarata, riuscire a mettergli un'antenna che risuoni bene, insomma, in modo da non rovinare i finali. Io ero curioso di vedere con quante stazionari uscivano quegli apparecchi spalleggiabili dell'epoca, ti ricordo. Perché lì non mi ricordo se era attacco PL o com'era, no? Attaccavi dietro, c'era il gomito, poi saliva su, no? Magari lavoravano con un mare di stazionari, eppure i finali magari non si bruciavano. Che c'era poi il contenitore portapile stilo. Erano molto belli quelli, mi piacevano parecchio quegli apparecchi lì. Poi vabbè, erano solo AM, spesso erano molto molto semplici all'epoca, solo AM, nemmeno FM erano certo. Bene, conta una cosa Gianfra, comunque se vogliamo essere pignoli per la modulazione, io ti sto ascoltando col 3009, se io metto già un qualsiasi CRT che hanno una tonalità di sezione più calda, anche questo microfono potrebbe risultare un po' troppo con toni bassi. E io so già perché ti hanno detto che non piace tanto. Diciamo il 3009 è un'eccezione che riceva un po' tonalità più acute, tutti gli altri baracchini hanno ricezione simile con tonalità abbastanza bilanciate, calde, insomma. Se si potessero, vabbè, quello è fisso, non ha i toni, se si potessero tirare su appena appena i toni forse sarebbe meglio, ma ecco, ma è fisso la V508. Poi ti volevo chiedere, ma qual è il microfono originario conosciuto con quel nome? Perché io li ho conosciuti quei microfoni con un saccaccio di nomi, tipo Avair, Lafayette, Oxin, di tutto e di più. Però non ho capito in origine se un Diamond o cosa è, non... cosa ti risulta a te? Ma di origine penso che non ne abbia, cioè questo è un microfono di, secondo me, di fascia intermedia, è comunque molto, molto fedele, perché c'ha anche la compressione, un po' di compressione, si fa anche da compressore, è l'ideale per gli apparati HF. Come fabbrica secondo me è sempre la stessa, ovviamente è una fabbrica cinese, tu la chiave le dici mettimi il nome tipo e loro ti mettono il nome tipo, capito? Però non c'è una fabbrica che si può dire proprietaria del, o meglio una ditta che è proprietaria, tipo di Diamond o compagnia cantante. Questo è uno che ha dato il progetto, l'hanno fatto, poi l'hanno messo in commercio, capito, la fabbrica. Poi ogni venditore ha chiesto di metterci il suo, ma lo fanno spesso anche con gli apparati, con tanti apparati sono tutti tipo proprio questo, che lo prende la Midland e ci mette il coso Midland, però poi dentro sono tutti uguali. Per la questione dei bassi può essere una cosa anche per il mercato orientale, magari che la voce, anche la lingua è un pochettino da tonalità diverse, capito? Quindi danno sempre priorità al mercato asiatico, magari. Sicuramente si tratterebbe di lavorare su qualche condensatore, perché di norma c'è in mezzo sempre qualche condensatore, però se lo apri è talmente piccolo che il gioco non vale la candela. D'altronde quello che è importante tra apparecchi di questa fascia penso che sia la comprensibilità di quello che si dice, capito? No, perché io mi ricordo questo V508 simile mio, ho aperto una foto dettagliata, ha più roba di quanto ricordassi. Vabbè, PTT Lock, Power, spia on air, up down per i canali, poi tastini aggiuntivi, call, VFO, memorie, presumo, MR, PF, che non so, c'era tutta roba comunque sì, per gli apparecchi amatoriali, VFO, memorie, eccetera. No, parlavo di una marca più prestigiosa, no? Poi è come la storia dei rosmetri Diamond, no? Le SX200 o simili. Io in origine, vabbè, il marchio più prestigioso con cui l'ho visto è Diamond, poi il clone identico in tutto e per tutto, almeno esternamente, poi dentro non si sa se abbiano messo componenti di classe A, di seconda scelta, marchiati Telecom, Oxin, Proxel, una marea di marchi, tutti identici all'SX200. Poi vedi i prezzi, che ne so, il Diamond, marcato Diamond, 75 euro, marcato Cincilla, 73 euro. Se permetti, per 2 euro in più, lo voglio marchiato con un marchio bello, Diamond. Cioè, almeno se lo fanno di marche così, il tracco baratto, fatelo pagare 10 euro in meno almeno. Il fatto è l'altro, che... di lì non è un gioco tanto di marca, capito? Perché l'apparato è assolutamente lo stesso. Non credo che una fabbrica che ne fanno quantità industriali si metta lì a scegliere il componente buono, quello cattivo. Sono i componenti, quelli lì li mettono, tra l'altro sono tutti, queste sono tutte apparecchiature fatte in serie da robot, quindi passano veloci le schede, in pochi secondi poi vengono assemblate, fatte, messe in scatola, chicca, e va solo messa la marca. Tanto è vero che l'unica cosa in comune che hanno dato una scatola di cartone, e c'è solo a V508, non c'è altro, capito? Né marca, né niente, anche guardando sopra, perché quello che ha arrivato, è proprio un ibrido. Aspetta che ti guardo se c'è la certificazione, c'è l'etichetta, marca non ne ha. L'unica cosa che ci sono, c'è gli attacchi per il com, per tempo degli Aesu, cioè c'è due attacchi, tempo degli Aesu e il com. Commutabili, perché l'iPhone, come al solito, ha dei piedini diversi, anche l'alimentazione cambia come posizione rispetto agli altri. Sì, mi è capitato anche a me una volta, una cosa ordinata è arrivata, cioè con la sigla del modello ma senza marca, una cosa anonima. Sì, tante marche sto vedendo. Lafayette comunque era quella più, vabbè, prestigiosa, una parola grossa. Lafayette comunque. Poi Comunica, con la K, Comunica, sarà roba tedesca, ce l'ha rimarcato, Avair, Oxin, sempre Comunica, cos'altro c'era? Addirittura Nissei, però chiamato NS508, ma dalla foto in piccolo sembrerebbe sempre lui. Poi c'era anche quello più grande, quello che ha avuto già nei doppi room, quello che era più largo, aveva una marea di impostazioni anche, di cui non ricordo, forse il 908, quello dico quello nero. Hi-Tech a V508, anche marca Hi-Tech, insomma ogni paese va bene. Poi ho visto che a seconda di come te lo danno con più cavi, non so, per Icon, per Kenwood, per Yeijo, vedo foto dove ci sono più cavi, non so se siano tutti contenuti o li devi prendere a parte, interrogativo. Ma prima mi ricordo, i primi che erano fitti ti davano anche cavi, adesso i cavi li hanno messi come opzionali molti, quindi vabbè, io non c'ho problema, ma lo trovo puntatrice, me li faccio. Quindi non ho solo, che è un cavo con due RG45 praticamente, quindi non so se sia adatto per qualche apparecchio che abbia gli RG a posto del classico, ma è mica. Però puoi tagliare, se aggiungi lo spinotto del tuo apparato va bene, capito? E così, guarda, di questi cosi ne hanno fatto una tonnellata, però qui c'è anche una cosa che bisogna stare attenti sempre alla, alla marca che prendi. Ad esempio io ho preso un televisore, non per me, e pensavo che fosse una marca, c'era sempre un angolino, no? Sono quei televisori che non pensate solo perché costano poco, sono da 13. La marca invece era una, credo che sia TLC, o TLC o TCL, ma forse era TLC. Tu vai a guardare, è quella lì, fornisce gli schermi anche la Samsung alla LG, cioè non è la fabbrichetta che noi sentiamo solo perché magari i televisori non mettono un angolino, ma è una tra le più grosse asiatiche, quindi è una grossissima multinazionale al e sta proprio sul podio, capito? Perché il film si riproduce da sola, cosa che non tutti sanno, neanche la Samsung, credo. Quindi sono cose abbastanza, dita abbastanza grosse. Evidentemente ha deciso per il mercato asiatico, che poi è stato anche portato in Europa, di farceli da sola e c'ha tutto, capito? Perché ripeto, una grossissima casa. Allora qua c'è una foto, l'ho trovato anche a mercato Proxel in una foto. Sotto se è quello, dunque, c'è varie regolazioni, vedo un selettore ICOM Kenwood, poi un selettore Mode SSB FM, forse influisce sulla timbrica, poi un piccolo trimmerino da cui puoi accedere all'esterno, volume minimo massimo, poi vedo un vano batterie, nel caso che uno non lo alimenti dalla radio, e poi sotto vedo due uscite, una Kenwood e una ICOM, è corretto? Sì, infatti è apprezzato per quello, perché è un microfono che va bene su tutto, quindi dal baracchino all'HS, eccetera, eccetera. L'amplificazione, c'è un sistema di amplificazione e anche di compressione, quindi è per quello che penso che vada molto bene come micro. Poi è anche molto tosto ai disturbi, non è come certi microfoni, magari se c'è un problemino di lunghezza di cavo, eccetera, si disinnesca. Io questi non li ho mai sentiti innescare. Qualunque cosa ci metti anche con potenze di 400 watt, non c'è niente, proprio rimane così com'è. Vabbè, capsula condensatore, quindi immagino che per esempio su questo apparato che esce già di suo abbastanza limpido dovrebbe suonare bene, però io, vabbè, microfoni da tavola inutile, non riesco a farmi di piacere, a me piace il mic palmare. Anche per lo spazio, infatti con l'MB più 5 vedrai che lo svenderò a qualcuno o lo regalerò alla fine. Tanto è sempre chiuso, tolta la batteria, chiuso in scatola e va a fanguarla. Ok, Gianfra, io adesso ti lascio, però se no davvero. Casomai riprendo dopo, se non mi viene la Biocco riprendo dopo se c'è qualcuno, perché qua poi alla fine non ne fa cose mai nessuno, insomma. Che tanto se parli di cose serie non entra nessuno, se facciamo prove e controprove non entra nessuno, qualsiasi cosa parli non entra nessuno, e vabbè. Pazienza. Ehi, capita. Ognuno vuole ce la fare o è una cosa. Purtroppo così, la radio è anche quello lì. Ti volevo dire, l'MD, ma cosa hai detto, MD più 5, cos'è il ZG, quella cosa lì? Leia, ZG MB più 5, quello che ha quel ridicolo strumento che non sale mai, cioè sale solo se ci fischi sopra la capsula, cioè potevano farlo più sensibile, no? In modo che anche a distanza vedevi se stavi uscendo, per dire, almeno che se stavo uscendo il mic, e c'è volume e tono, Io per la mia voce la devo mettere a 3, se non a 2 addirittura, per essere più masculo, potrei dire. A 2. Se no a 5 è già per me molto fine, poi chi lo sa, mi dovrei ascoltare io e decidere quale piace a me. Cioè, al fine devo uscire come piace a me, non come piace agli altri. Come facevo le altre volte, mettevo un baracchinetto nella stanza a fianco, senza antenna anche, col registratorino, quelli Olympus, Sony, no? Facevo un passaggio col Vox, no? Così inizio a parlare, mi registro, mi ascolto e decido qual è la timbrica che mi piace di più. Com'è molto grande come microfono, per lo meno non so se hai mai visto questo è anche il gambo flessibile, quindi è regolabile in altezza, posso mettere più basso, più alto. Com'è? È tutto fisso, tutto massiccio, grande? Sì, non è il gambo fino e orientabile, praticamente è un pezzo di alluminio pre-soffuso. Vabbè, tanto le foto su internet ci sono, le dimensioni non te le saprei dire perché dovrei aprire la scatola e misurarlo, però dovrebbero esserci le dimensioni della basetta, anche l'altezza, su internet. Cioè, non va male, però io non con quelli a tavola non riesco, mi rompo le palle. E giù, guarda, l'unica cosa comoda è il PTT bloccabile, il lock. Per il resto non... Te l'ho detto, a me piace prenderlo in mano. Maniaco. Sciabocco. Ma come l'hai detto? Non fa ridere. Appena fai battute vagamente sessuali esce a pizzo pomponio. Ciao Antonè. Ciao salutone, l'hai sentito tutti e due. Se tu dici così, scusa, io capisco male, ti piace prenderlo in mano. Specifica prima, se stai dicendo il salsiccione o il microfono. Buonasera, adesso mi assento che faccio tutto là, se non tre. Non riesco, dai. Ben sentito. Stasera vicino a casa tua, Eurospin, a fare la spesa, ho fatto Lidl, Eurospin. E mi sono anche abbastanza stancato. Però tante cose in offerta, allora ho fatto il pieno. Noi per un po' non ci pensiamo. E se vai alla Cobe che qua ti spennano. Cioè con 10 euro compri tre cosettine. Non hai comprato nulla con 10 euro qua. È una cosa incredibile. La Cobe che c'è qui, a Carbonazzi, ci sono le fettine di cavallo che le puoi tagliare anche con la forchetta, figurati tu. 3 fettine e 3 euro. E conviene. Poi maiale è la stessa identica cosa, le fettine di maiale costano poco. Il salsiccione è buono e costa anche poco anche quello. Non è quello grosso come quello dello spì, è più fine, capito? È buono. Certe cose le puoi comprare dello spì, certe cose invece no. Quindi io mi alterno un po', la carta la prendo dalla Cobec e tutto il resto dallo spì. A me, proprio il salsiccione l'ho comprato da Eurospin oggi, c'è la confezione XXL, un bel colore brillante, non marrone come certi, un bel pacco da, sarà un chilo, niente di che, sì forse più grosso, a me piace grosso, come piace prenderlo in mano, a me piace grosso, guarda Gianfra, dai vi devo lasciare per forza, a dopo se ci siete, ciao. Insomma sei proprio una ricerca quello lì, meglio un gusto che 100 malanni, ma mi pare che da quello che hai detto poco fa i malanni comunque non si sono evitati. Noi anche a scuola eravamo così, anche davanti al professore arrivava il compagno in classe, oh vabbè come va, me la tocchi, me la stringa, il professore, fatta meno gli spiritosi. Bocche di scandalo, ma già dalle medie eravamo bocche di scandalo, parlo di me e di quelli conosciuti all'epoca. Va bene, dai, a da voi, riprendi Antonè. Ciao Marco, ci sentiamo dopo al limite, non c'è problema. Mi sono andato a fare una battuta più che altro, adesso porto il cane giù, mi faccio fare la pupù e poi rientro. Se non mi sbrana. Infatti mi piscia davanti alla camera per questa testa. Lo fa apposta. E così ti impari. Una volta me l'ha fatta. Sono uscito, non l'ho portato, no? Dice, non so far letto. Tutto un tratto mi sento questi pantaloni cazzo bollenti, cazzo nel fianco. Cazzo non mi ha pisciato lui. A fianco a me, ha pisciato lui. A me i pantaloni mi hanno letto. Ma questa su sacculo che gli ho tirato. No, ma me lo fanno i gatti. Io faccio tanti gatti, quindi sai. Gatti tra l'altro che non lavorano, viziosi, pretendono tante cose. Però sono sempre a curiosare, quando fai qualche lavoro elettrico soprattutto, sono sempre bei tiri. Vabbè, fanno ridere anche loro, perché anche a loro ho visto che ci sono incidenti degli umani, tipo quando si arrampicano in campo, stanno a terra. Insomma, ne fanno di tutti i colori anche loro. E mio già si arrangia a fare. Se io esco per dire, prende e mi piscia la cameretta dove sono le macchine. Infatti quando esco fuori, cioè quando esco, chiudo la camera mia, se mi piscia la piscia il salone, se la piglia in Napoli, eccetera eccetera. Ma quando era più piccolo era una cosa allucinante, ciabatte, scarpe, non lo potevi lasciare in giro. Se le perdeva con la dentiera e te le bucava, te le portava a passeggio e te le bucava tutto. Secondo me quel vito se l'ha tolto. Magari perché era piccolo. Perché era piccolo, ma no. Io qua invece non ho cani, perché ce ne hanno tutti intorno qua i cani. Noi abbiamo gli altri, quindi per cambiare un po' il panorama. Ho visto che quando la fanno, perlomeno questi, quando la fanno, neanche un cristiano, vuol dire, in termini di quantità. Ma lui ha le cose, le date allucinante, sembra ammoniaca, sembra. La senti come cosa, la senti. Poi dura 3 giorni. Se non andavi bene con la varecchina, gli hanno dato glielo male già. Del coso, del gatto. Quella del cane è molto meglio come coso. Meno puzzinosa, capito? La senti di meno. Ma lo dirà il gatto, cazzo, è una cosa lucida. La ultima mia sorella è bagno dei gatti e sai quante volte entravo in stato di trovare, che il gatto si sta rovinando tutto. Deve essere che il gatto è rovinato vicino al coso, al divano o dietro. Poi si agganciava con le unghie, tutto il divano ne ha che fatto. Sì. Tu devi vedere, io ho una casetta da freschi fuori, che riguarda i libri con il legno, con il turbinato. Quando stanno le unghie, guarda, se continua così, fanno il buco. Adesso che abbiamo pure anche il gommone, che vedo che di nuovo tutto sgonfio. Sai, qualcuno è andato e si è fatto le unghie. Sono veramente dei delinquenti che non ti immagini, e poi sono furbi. Secondo me il gatto è molto più intelligente del cane, perché il cane, se lo guardi bene, alla fine è uno schiavo dell'uomo, perché le dici siedi che lui si siede, alza che lui si alza. Il gatto invece capisce benissimo quello che le sta dicendo, però tra sé dici, ma domani che te lo faccio, ma ne frega assai. Io sono intelligente, mica faccio quello che voglio, faccio quello che voglio io, capito? Ti guarda con aria così, superba, e ti manda in quel paese. Io lo so, i gatti sono fatti così. Il cane, vabbè, quello che ho io, grazie a Dio, già è tranquillo. Quando da sempre vicino a me o vicino alla mia ragazza, capito? L'ho messo a palletto, quella mattina se non mi alzo, prende e si mette a bagliare, me ne toglie le coperte, con le zampe, capito? Dice, o ti ribeso, i due sono di costo. Infatti. E così, ma no, è piccolino, no? Non è di taglia grande. Un pincere. Non ce l'ho presente, quali sono quelli tipo di taglia chihuahua, quelli. Oh, più lungo, È un pincere. Il musetto tipo chihuahua, ma è più allungato, capito? È un cane, però è mezzo storto. Quando vede il cane viene avvicinato, oppure quando lo porta al bar, che lo porta per la pipì, poi mi va a bere una cosa al bar. Sì, secondo cliente guai. E comincia a bagliarlo, non vuole che. Se è simpatico è un conto, ma se gli è antipatico guai. Se vuoi stare zitto, figurati. Lui non vuole che entrino altri cani. Non ha mai si è fatto parlare del viole lui, hai capito? Se c'è gente esterna, la mia linea esterna e lui subito comincia a. Finché non incontra il cane più grosso. Questo lo mangia. Perché anche tra di loro già sono violenti. Sì, lo so. Io una volta ero andato a televisione cazzo più che altro a fare un lavoro in scooter in campagna di un amico farmacista e chiamava questo cane che era di quei martini napoletani, io non sai quanto sono alti, non è fatto un mese. E prima di giorno l'ho visto, ho trovato un cazzo 100 aspetta il cancello, questo ho detto mi muore che cosa facevo? Quando camminavo io lui si metteva dietro e mi scottava, cazzo. Si metteva seduto, mi guardava, si muoveva anche lui, e io tu gliela presa buona con questo cane, e io ho detto al parola, ma non è con questo gli viene qualche cosa in mettere in mossegheggia, no, sta tranquillo che fa così con tutti, dice, i primi giorni, poi verrai e si mette a giocare con te, capito? E infatti così era. Dopo una settimana che mi violeva tutti i giorni mattina e sera, alla fine poi aspettava che si metteva vicino al cancello, sapeva che arrivavo alle 8:30, veniva e si metteva a giocare. Infatti perché sapeva che eri uno di lì, dalla famiglia, quindi pensava così. Sono quelli che evidentemente anche loro hanno delle malattie che ti girano e aggrediscono anche il padrone. Secondo me c'è qualche malattia che se le prende alla testa e diventano matti, non succede anche agli uomini d'altronde. Sì, già è vero, ma questo è successo, se ti ricordi bene, a quel ragazzo che parlava a Baracchino, abitava alla fine di via Baldetta, andando verso. Mi si dice? Adesso non mi ricordo come si chiama quella zona. Perché parlava a Baracchino? Parlava lui e la sorella, parlavano tempo fa. Ha tappinato, si è girato e l'ha musicato, non ha musicato la mano e il braccio, l'aveva musicato. E gli è andata bene, è andata. Sono venuti i veterinari, hanno pigliato il corpo in testa e è fatto fuori. Perché c'è anche molta gente che i cani non li fa tenere, perché in ogni caso va sorvegliato. Qua era successo tanti anni fa che alla difesa del tram, lo tram a Colabus, è sceso un ragazzino e c'era questo cane che l'aveva visto e veramente è successo un casino, perché poi credo sia finito in ospedale il ragazzino. Il cane non so che fine l'abbiamo fatto fare, però sicuramente quel padrone ha avuto delle gravi conseguenze, perché adesso con la sia con il regolamento comunale sia con la legge ne risponde, capito? Se il cane fa qualcosa a qualcuno non lo sta facendo il cane, lo sta facendo tu. Quindi è sempre meglio tenerli diciamo vicini, perché rispetto anche loro magari fanno qualche cosa e gira sotto è successo anche a dalle persone lì in continente che ogni giorno davano da mangiare, le accudivano, una signora anziana che poi mi ricordo, credo che l'anno scorso, poi è stata uccisa, eppure il cane è stato sempre tranquillo, mangiava dalle sue mani, eccetera, eccetera. Poi invece so dove è preso la giornata. Sì, e poi ti alzano al collo, più che altro, e loro ci hanno colpito di alzare al collo, capito? E ti pigliano in tiro dei muscoli. E erano di troppo. C'era anche quel periodo di quelle persone, quando c'era la moto, via San Paolo terremo, perché c'erano anche le palicali, ogni volta che ti volevano in moto, poi gli avete seguivano. Hai capito? Sono stato attento, gli avete uscito fuori strada, gli uscivi. Ci sono le macchine, le gomme delle macchine. Allora, quello è un pochettino male a musicale, però in moto, quando ti trovi a dove fare i seccali, non è che sia così bello farti scontare così, no? E il bello che non potevo neanche toccarli, perché se ti presenti lì con un bastone, ma si era ragione al torto, capito? Poi, bene o male, dopo che avevo già andato a una persona, avevo potuto immediatamente avevo potuto salire. Ma c'erano anche le faricane, ma tanti anni fa. Adesso non l'ho più visto, grazie a Dio. Ogni tanto già c'è la zona dove ci sono i cari randaggi, capito? Perché mi trovo in mezzo alle stradine di campagna, devi stare molto attento a visitare. Non volevo dire a me che io vado in bici e voglio andare in ferro. Ero di lì a Porto Torres, sono già tanto a Monterasu, che è quella collina che c'è la fabbrica delle bombe. Fortunatamente stavo scendendo verso Platamona, no? Alla rotatoria che c'è. Ma da lontano mi hanno visto, era una roba di una decina di cani. Certo, inizia uno e attaccano gli altri a inseguirmi. Ma guarda, il tetto c'è la difesa, c'era anche qualcuno, ma sono fatta a mille, perché c'era tutto il branco dietro, fortunatamente non mi hanno raggiunto. È andata male invece a un altro, a mio collega che sta facendo sotto, e di lì è salita nel suo cane, si è avventato il corpo, l'ha fatto cadere, l'ha tutto fratturato, guarda, una cosa micidiale. E lo sai che ormai nel canile non ci stanno più cani, quindi quei cani che randaggi che ci sono rimangono in giro, siccome c'hanno fame, specialmente l'estate, si agganciano a chiunque. Non hai visto al centro storico, sono spariti tutti i gatti, che pieno di cani randaggi, ci hanno paura anche a camminare a piedi la gente, è successo mi sembra 15-20 giorni fa, quindi non passa se sei vecchio, di notte specialmente, che ti aggredisco di cani randaggi. Ui. Vabbè Gianfranco, che devo uscire, ci sentiamo dopo lì, perché se ci sei là, vado a farmi la spesa, ci sentiamo fra 4 ore e 20 minuti. Ok, Antonio, ti devo chiedere una cosa prima di andare via. Sai se, ammetto che sia ancora aperto, sai se Tomina vende componentistica o se c'è qualche altro che la vende a casa di oltre a Cusaro che non ce l'ha, perché sto cercando di contattare al Tartario, però Cusaro non ce li ha, o meglio ce l'ha dei valori che non vanno bene. Esiste qualche altro che li vende? Torino ormai la componentistica l'ha eliminata, ya lo sai, quindi sai quante volte me l'ha detto a me, Antone, comprato su internet, mi rispondeva, cazzo, la tua risposta, mi ha detto, Torino non ha giù compreso, ho detto perché rispondi così. Quindi non mi conviene più, dice, ormai dice, i baracchini non si vendono più, quella roba non si vende più, componentistica non ne faccio neanche arrivare, c'è una perdita di tempo. Vendo solo quello che sto vendendo, mi ha detto, basta, la fa come vuoi, ha detto Torino, cosa vuoi dire? Bene, sono primi, roba per antenne, tutte quelle fesserie varie che vende, roba di elettronica, così, già fatta e basta. Proprio componentistica, pezzi, roba del genere, non c'ha più niente. Usalo e ci mette un sacco di mezzi ordinati la roba. Se gliela chiedi proprio per favore, te la fa anche arrivare, se no manco a Fusaro non ne fotte nulla, c'è più che altro roba vecchia, rimanenza di magazzino a me. Se scendi giù, chissà le antenne che ci trovi, buttate in quella specie di cantina giù. e oramai sono tutti in crisi. Poi il Torino in particolare, se continua a aprire gli orari alle 10, poi... Ma vabbè, oramai i crisi finiti sono i tempi, oramai sono online, solo che se sei online... Ormai me ne serve uno, magari quelli te ne hanno 50, non che costino cari, però poi tutta questa roba, cosa fa il magazzino. Va bene, ciao Antonio, comunque, buona serata, alle prossime. Se vuoi controllare l'orario, comunque te la do, adesso stai andando bene, visto? Ti capisco perfettamente, la radio è più recente, è comprensibilissima. Sto usando l'857D, già lo credo. Certo, quando vuoi tu già pensi come via comando. Va bene, dai, ti lascio andare che anche io mi devo allontanare, che mi stanno chiamando. Alla prossima, Antonio, buonasera. Ciao, ci sentiamo. C'è nessuno qua? La frequenza chiusa. Luca.